Buonasera, benvenuti al quinto Red Reading. Ci sono alcuni incontri che ti restano talmente dentro che hai proprio voglia di condividerli. E per me è stato l'incontro con questo libro, La miliziana di Elsa Osorio, che non è qui con noi ma c'è, nel senso che avremmo dovuto fare una telefonata via Skype, non ci siamo riusciti, però insomma abbiamo qui una sua carissima amica e questa storia di questa donna secondo me dovrebbe essere raccontata nelle scuole. Ecco, quello per me è un libro di testo, La miliziana, Mica. Partiamo da lei e in realtà poi incontriamo altre donne che hanno fatto percorsi ribelli, appassionati, e queste sono le nostre cronache passionarie. Cronache da un funerale. Parigi, 1992. Appena l'avvisarono della morte di Mika Etkeber, Conchita Arduendo si chiese come fare. Non poteva certo decidere lei delle sue spoglie. C'erano tutti quegli amici atei che l'avrebbero cremata senza pensarci un attimo, come la stessa Mika poi aveva disposto. Ma Madame aveva autorizzato Conchita a benedirla. A modo suo glielo aveva chiesto. Ecco, se Conchita ci fosse riuscita, ma come Dio comanda, per carità, in latino, forse sarebbe valso a scongiurare che Madame Mika finisse all'inferno, perché in fondo lei era buona, un po' autoritaria, ma buona, se no non sarebbe andata a combattere in guerra, non era neanche spagnola. Era stata la prima cosa che le aveva spiegato Monsieur André Breton, quando le aveva chiesto di andare ad aiutare un'amica nelle faccende domestiche. Guarda che Mika ha combattuto con i repubblicani del tuo paese, è stata una capitana. Madame Mika era stata molto generosa con lei. L'aveva sottratta ai maltrattamenti del marito e l'aveva convinta a lasciarlo. Le aveva trovato il lavoro e l'appartamento di Rue Saint-Sulpice per tirare avanti con i figli. Conchita non l'avrebbe mai abbandonata al suo destino nell'eternità. Io li odio i preti, Conchita. Perché invece non provvedi tu a benedirmi? Nel momento in cui spingevano la bara di Mika nel forno, dissero che qualcuno doveva accompagnarla. Conchita fu pronta. Vado io. E nessuno osò discutere. Lei, che al pensiero di rimanere sola con un morto perdeva il sonno, vide il corpo di Mika sparire tra le fiamme. Un moment, chiese all'uomo alzando una mano mentre con l'altra cercava il foglietto con le frasi in latino che poi pensava neanche Dio secondo me le conosce più. Forse era caduto sul pavimento o anch'esso era bruciato. Insomma, Conchita non lo lesse. Una determinazione sconosciuta le fece alzare la mano destra, che mosse tracciando una croce in aria, e la sua voce suonò chiara e stridente. Io ti benedico, Mika. Riposa in pace. E qualche ora dopo, quando non ci fu più nessuno in giro, Guy Prévan e sua moglie Daddy Noir uscirono di casa avvolti dalle ombre complici del crepuscolo. Guy aprì la borsa, prese l'urna e sparse lentamente e illegalmente le ceneri di Mika nella Senna. Sull'acqua galleggiavano alcuni gigli del giardino della sua casa di Perigny. Dissolversi completamente era il suo desiderio, come si era dissolto il corpo del suo Ippolito. Ora sono insieme nell'immensità dell'ignoto. Un bel modo di ritrovarsi dopo tanti anni. Cronache dalla Spagna ribelle. Sigüenza, settembre 1936. Nessuno glielo chiede. Nessuno lo pretende. Eppure Mika è lì, nella notte buia, a montare la guardia sul monte, come altri al campo e nella periferia della città di Sigüenza. È scossa da un brivido quando scorge le postazioni del nemico, sempre più vicine. Anche i fascisti impilano sassi, ma dietro ci nascondono potenti mitragliatrici, mentre loro cosa hanno loro? Miseri fucili, pochi cannoni, solo polvere da sparo e dinamite. Sì, perché ora non deve provvedere solo a cibo e vestiario. A questo punto Mika è diventata responsabile del destino dei suoi miliziani. I miei miliziani. Quanto tempo è passato dal disagio dei primi giorni davanti a questi soldati che assomigliavano così poco ai militanti internazionalisti a cui ero abituata, quando le mie emozioni erano tanto diverse dalla felicità piena, luminosa, che irradiava Ippolito nel suo mondo di guerra. 2, 3 mesi, 3 secoli. Il tempo si conta diversamente in guerra. Un sorriso complice nell'aria. Era questo, Ippo, che doveva succedermi. Ippo, amore mio, adesso mi sento leggera, quasi eterea, senza angoscia. Il mio mondo ormai si limita alla casa di 2 piani che occupo con la colonna del PUM, alla stazione ferroviaria di Sigenza, dove incontro i responsabili delle altre organizzazioni, al telegrafo per comunicare con gli altri comandi, a Madrid e al fronte imprecisato con il nemico. Fuori da quel fronte non esiste niente. Non è esistito mai. Senza passato, senza futuro. Il presente può finire domani, tra 50 anni o 5 minuti. Per questo è immenso e tanto terribile. Così diverso da tutto quello che già conoscevo. Il mio corpo reagisce in modo strano, come se si fosse modificato nella composizione chimica e ora non avesse più bisogno né di nutrimento né di riposo. Posso restare sveglia addirittura 3 giorni o 3 notti di fila e mantenermi lucida. Come spiegare la gioia insensata che ho provato quando sono riuscita a organizzare i pasti, a ottenere stivali per tutti i miliziani e il termos con il caffè caldo e il calore delle discussioni con i compagni. È ottobre 1936. Lasciammo la casa del PUM e benché nessuno fosse convinto finimmo per fare quello che volevano gli alti comandi di Madrid e ci chiudemmo nella cattedrale. Parlo con i miei responsabili, non ha più senso aspettare ancora, non ha più senso. È chiaro che la famosa fortezza inespugnabile non è tale. 3 cannonate hanno aperto una breccia enorme nella navata centrale, l'altare maggiore è distrutto, i santi delle pale sono coperti di polvere, alcuni addirittura amputati, tanto li amano i soldati di Franco. Le scorte alimentari sono quasi esaurite, non ci sono dottori né medicine per curare i feriti. Dobbiamo prendere una decisione, una volta per tutte. Sono già 5 giorni che stiamo qui. Io mi rifiuto di morire schiacciata sotto le macerie di questa sontuosa cattedrale. Io voglio uscire all'aria aperta, anche a costo di essere falciata dalle mitragliatrici. È successo quella notte in montagna? Quale giorno? Quale situazione? Quale evento? Quale battaglia ti ha fatto diventare capitana? Quale evento? È stato quando hai chiesto all'emissario fascista un documento firmato con le condizioni della resa? È stato lì, lì che hai capito che ti identificavano come una donna pericolosa, una comandante dei rossi? È stato quando a Pineda de Numera hai trovato il modo di resistere 14 ore agli attacchi? Avevi già i galloni sul cappotto quando distribuivi ai tuoi uomini lo sciroppo per la tosse nelle trincee, tra i fischi dei proiettili? E ancor prima... Cosa ti ha portato a combattere in Spagna? Così lontano dal posto in cui eri nata, cosa ti ha spinto a consacrarti anima e corpo a quella guerra? A farla talmente tua da essere nominata capitana dagli stessi miliziani? Apri la bocca, compagno. Era piccola, amica, minuta e dritta, gli occhi di madre perla, il viso coperto di fango, era vestita da uomo e bellissima. Apri la bocca. Bisogna immaginarla così. La capitana, con un cucchiaio in mano che imbocca i suoi soldati di sciroppo per la tosse fatto da lei, acquavite e miele, che per mirare bene non bisogna tossire uno dopo l'altro in trincea, apri la bocca, ingoia e spara, compagno. Bisogna immaginarla in prima linea, sul fronte, sotto le bombe, capace di organizzare una scuola dietro le trincee e di leggere Dumas ai combattenti analfabeti e poi di lanciarsi in combattimento sotto il fuoco delle mitragliatrici, rispettata dai bambini per l'amore, dai soldati per il coraggio. Una donna, ebrea, straniera per giunta, argentina, a capo di una milizia antifranchista durante la guerra civile di Spagna, austera, dura e dolcissima. Bisogna immaginarla ragazzina, a curare i denti dei campesinos in Patagonia. Bisogna immaginarla donna, a Berlino, nei giorni dell'incendio del Reichstag, vecchia nel maggio francese. Ma come abbiamo fatto a raccontarci le storie di un secolo, senza conoscere Michaela Feldman et Kbeber, senza sapere di Mika e di tutte le altre, senza dire di questa donna che lo ha attraversato per intero il secolo, a volto scoperto e fronte alta, come un vento che solca i continenti, come un Che Guevara, con l'abito lilla e gli stivali neri, con quel sorriso, con la poesia della sua grande amica Alfonsina Storni nel cuore, con l'amore senza confini di Ippolito, compagno di vita e di politica, di figli mai nati e di trincea. Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Alas barricadas, con el triunfo de la confederación. Alas barricadas, por el triunfo de la confederación. Alas barricadas, por el triunfo de la confederación. Cronache di Emma. Giovanissima miliziana, dalla trincea. Sigenza, settembre 1936. I miei genitori si sono messi a strillare come pazzi quando gli ho detto che andavo al fronte. Ma tu devi essere impazzita, ma io sono scappata di casa. Come Abisinia, Carmen e Maria della Mercedes. Siamo tutte giovanissime, io ho 16 anni. Nessuna arriva ai 20 anni. La capitana no, lei è più grande, ne ha più di 30. Non sono la capitana, mi ha detto Mika l'altro ieri. Però lo è, visto che comanda, è la capitana. Può anche darsi che nessuno l'abbia nominata ufficialmente, ma è comunque lei che ha chiesto al comandante di mandare rinforzi o di evacuare la città. Il comandante però purtroppo non le ha dato retta, né a lei né agli altri capitani. Restate dove siete, dovete resistere. È lei, è Mika, a incontrare i leader delle altre organizzazioni e poi discute la situazione con noi. Ed è sempre lei, benché donna e straniera, a mettere i puntini sulle i quando serve nella colonna del PUM. È in questo modo particolarissimo che guadagna autorità. Ci spiega quello che lei per prima si sforza di capire. Ci protegge, accende torce nel suo sconforto e nel nostro, e pronuncia verità forti come pugni che nessuno ha il coraggio di confutare. Bisogna vedere com'è brava a comandare e senza strillare, anche se a qualcuno non va tanto giù che Mika organizzi. È una ficca naso, come mai una straniera dovrebbe spiegarci cosa fare? Quanto si sarebbe indignato Ippo se avesse sentito dire che la guerra di Spagna non era un loro problema. La rivoluzione è ovunque ci sia una miccia pronta ad accendere. Lui l'aveva capito giovanissimo, in quella settimana tragica del gennaio 1919, che restò negli annali della repressione argentina come un filo insanguinato. Guardava dal balcone di casa e non poteva credere ai propri occhi. La polizia a cavallo trascinava via gli ebrei legati alle bestie. Uomini armati di pistola arrestavano. Le cose degli ebrei bruciavano in enormi falò. Donne e anziani picchiati da ragazzi, grida, pianti, insulti. Non può restare impassibile. Ma loro sono di più. Un cazzotto, un altro, e Ippolito finisce a terra. Insanguinato torna a casa e scrive febbrilmente il manifesto «Ascolta la verità». Ippolito entrò nella rivoluzione quel giorno, come altri entrano in un ordine religioso per sempre, fino all'ultimo battito del suo cuore, con un odio lucido e ragionato, sempre desto, teso come la corda di uno strumento ad arco, pronto a sparare contro un ordine sociale assurdo, rapace e assassino. Sì, comunque io questa cosa della straniera non me la bevo. Il vero guaio è che è una donna. Però sono in pochi, per fortuna, a pensarla così. E sono nervosi, come tutti, perché non si combatte. Dall'attacco dell'aviazione fascista, che paura spaventosa che ho avuto. Ma ormai non ho più paura. Il nodo allo stomaco si è allentato. Ora sono più preparata. Ho 16 anni ma sono più preparata. Ormai so fare una bomba e presto imparerò a sparare con il fucile. La prossima battaglia di sicuro non mi lasciano nella retroguardia. Vinceremo la guerra. Ne sono certa. Non siamo neanche soli su questo fronte. Ci sono i ferroviari della UGT socialisti, il battaglione passionaria comunista, la colonna CNT Fai anarchici e la nostra colonna del PUM. La meno numerosa ma la migliore. bisogna immaginare cosa deve essere costato agli uomini di quella colonna, nella metà degli anni 30, avere una donna per comandante. Loro che alle donne combattenti erano abituati a far lavare i calzini, a far pulire le baracche. Tra i comunisti le donne si occupano solo delle faccende domestiche e dell'infermeria, la informa subito Ilario. Dunque pensi che io debba lavarti i calzini? Le risponde Mika, guardandolo dritto negli occhi e senza aspettare replica. Vediamo dunque, a chi tocca oggi il turno di pulizia? Avevi l'età di Emma quando ti unisti all'associazione Louise Michel? Non c'era guerra in Argentina, ma anche tu volevi cambiare il mondo, no? Come Emma. Avevi anche tu la sua età? Cronache dall'Argentina. Michaela Feldman nasce nel 1902 da una famiglia ebrea fuggita dalla Russia zarista. Ma in Argentina il tallone di ferro del capitale si faceva sentire con un regime di sfruttamento, di oppressione e stragi. Poi il 1917, la rivoluzione russa e le speranze riaccese per sfruttati ed oppressi. A seguire questo sogno in prima fila ci furono i giovani proletari e accanto a loro molti giovani intellettuali. È il 1920. Università di Buenos Aires. Corso di laurea in odontoiatria. Mika ha 17 anni e freme dalla voglia di partecipare più attivamente. Per le strade e nei cortili della facoltà non si è ancora spento l'eco della settimana tragica del 19, della riforma universitaria del 18 e della rivoluzione russa del 17. Poi ci sono le jacarandas in fiore e il desiderio di vivere questa città in cui Mika sta muovendo i primi passi. Ascolterà per capire. Vuole ragionare, discutere, agire. Potresti scrivere sulla rivista che stiamo organizzando, Insurrexit. Bel nome. Viene dal latino, insurgo, insurrezione, ribellione. Sì, lo so, l'ho studiato, ma a Mika non interessa la ribellione fine a se stessa, quella dettata solo da ribelle. Era Louise Michel, una vera ribelle, la focosa comunarda di Parigi, la ammirava tanto. Non ricordo il vestito bianco e blu che indossavo, né il rossetto leggero che mi ero messa sulle labbra, se non attraverso le sue parole, perché lui ricordò sempre il nostro primo incontro. Aspettavo solo Pancho e Francisco e mi sorprese la presenza di quel ragazzo che portava su mezza testa come un'aureola un cappellino da gaucho dalle ali arrotondate e girate all'insù. Alto, magrissimo, carnagione talmente bianca da sembrare malato, occhi grigio-azzurri, profondi, emanava luce. Era Ippolito Etkeber. L'essenziale è studiare, prepararsi all'azione. Non è necessario che decidi subito di entrare nella rivista. Prenditi tutto il tempo per pensarci. Vieni alla riunione che faremo sabato con altri compagni. E poi si vedrà. Ippolito le stringe la mano, la guarda a lungo e sorride. Quel sorriso illumina tutta la sala della pensione, la strada, il superbo paradiso che spunta dalla finestra, il crepuscolo di primavera, tutta la sua vita. È la seconda riunione del gruppo. Stavolta parlo. Se vogliamo l'uguaglianza, prima dobbiamo lottare per l'uguaglianza di tutti. La sua voce cresce, si fa nitida, come se le prime frasi avessero infuso coraggio. Finché ci sarà una classe che dà tutto e un'altra che prende tutto, la donna non sarà mai indipendente e non occuperà neanche il posto che merita. Te la senti di scriverlo? Ippolito le ha dato del tu, la incoraggia. Riuniamoci tutti domenica per leggere l'origine della famiglia di Engels. Allora, siete d'accordo? Ma il suo sguardo folgorante inchioda proprio lei. Noi vediamoci il giorno dopo, lunedì, da soli. Si danno appuntamento alla Costa Nera Sur alle 5 del pomeriggio davanti alla statua di Lola Mora e si rivedranno il martedì e il giovedì e il sabato e la domenica e la settimana e il mese dopo e l'altro ancora scivolando verso la china dell'amore un passo alla volta ma inarrestabili, chiacchiere, passeggiate, mani che si intrecciano, letture, dibattiti, progetti, tutta una vita davanti e gli ideali comuni, la rivoluzione, carezze, la rivista, i compagni e quella sera umida del gennaio 1921 con il numero 4 della rivista fresco di stampa e la certezza di una reciproca e crescente intesa. Quella sera le mani forti e calde, i baci pieni e il corpo aperto al piacere, la passione. Mika Si sorprende, anche se lo sospettava dalla domenica in cui Ippolito le aveva posato una mano sulla spalla. Si sorprende di quella pace, esaltata nel suo corpo quando accoglie quello amato del compagno. Ippolito si sorprende, anche se lo sospettava dalla domenica in cui aveva sentito la pelle fremere sotto la spalla di Mica. Si sorprende della fulminante felicità nel suo corpo quando finalmente penetra quello della compagna. E così arrivò la sera d'autunno in cui infilai in una valigia i miei libri, qualche abito, il mate e la bombilla che mi ero portata da Rosario, e bussai alla porta della stanza che Ippolito aveva affittato in Cagliari del Cauano. Restammo allacciati in un lungo abbraccio. Finalmente ero a casa, una casa destinata a cambiare di forma e di luogo varie volte, ma che da quella prima sera rappresentò il calore, la luce, il benessere, la sicurezza. La noce era semplice de nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas, seremos esta noche todo el día. Amame sin luz en nuestra alcoba azul, donde hubo sol para nosotros. Llégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Novembre del 1923, Ippolito entrò nel Partito Comunista dopo un soggiorno forzato in campagna per motivi di salute. Il fervore con cui abbracciò la causa e i suoi discorsi appassionati spazzarono via una dopo l'altra tutte le riserve di Mica, e anche lei si iscrisse nel luglio del 1924. Organizzò gruppi femminili, parlò nelle fabbriche, nelle strade, in città e nei paesini. Il partito doveva consolidarsi in Argentina e loro non si risparmiarono. Ma ogni giorno erano sempre di più coloro che mettevano in discussione l'atteggiamento inetto, senza via d'uscita, di chi si limitava a prendere ordini. Per alcuni il motore era il potere, non la rivoluzione. Poco contarono le conoscenze teoriche di Ippolito sul marxismo-leninismo. Poco contò l'eccellenza della sua oratoria, che aveva avvicinato peraltro tante persone. Poco contarono gli eventi che Mica organizzava. Loro non sposavano in modo pedissequo la politica dell'Internazionale Comunista e vennero espulsi dal partito alla fine del 1925. L'anno dopo partirono per la Patagonia. Portalo via, Mica. Portalo lontano. Ippo sta male. Ci vuole aria buona, clima secco, riposo, un altro stile di vita. Andare in Patagonia, aprire un ambulatorio, all'inizio in un paese, poi in una città. E quando avremo guadagnato a sufficienza e la salute di Ippolito sarà migliorata, cominceremo a viaggiare. Ci sposteremo con uno studio ambulante e faremo la nostra ricerca su tutto il territorio degli scioperi. Speriamo accetti di partire, di curarsi, di salvarsi. Medicare i denti e curare il mondo. Gran bel progetto, scherzò Alfonsina Storni e tutti risero. La salute di Ippo era la mia ossessione, allora e sempre. Riprendevamo a vivere quando il suo colorito si ravvivava, quando ingrassava, quando la tosse si calmava. Il lavoro, le conversazioni con i pazienti, tutto il tempo per leggere, fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Generose ore d'amore e di sonno. Teo, un cane enorme, divenne il nostro inespirabile compagno, la vita senza scossoni. Ippolito ogni giorno più forte, Studiavamo gli appunti che avevo preso a Buenos Aires, ma eravamo ancora lontani dalle terre del grande sciopero dei braccianti ovini che ci eravamo riproposti di indagare. Dopo un anno e 3 mesi di lavoro comprammo un camioncino un po' sgangherato, che però durò più di quanto avremmo mai pensato, come se si fosse lasciato contagiare dai nostri sogni. Ci caricammo Teo, i nostri macchinari e un entusiasmo che ci avrebbe portato fino a Ushuaia. Lo splendore del lago Futa Lauken, si dice così. La magia dei boschi, con alberi incredibili. La natura non mi aveva mai commosso tanto. Non so se i nostri anni in Patagonia siano stati più felici. Ogni epoca ha i suoi. E anche i primi tempi a Parigi sono stati meravigliosi, anche nella Berlino turbolenta, con tante emozioni condivise. Quello che posso affermare con certezza è che non abbiamo mai più conosciuto una felicità altrettanto pacata e ariosa. Una sensazione di libertà e grandezza perfetta, talmente in sintonia con l'ambiente che ci circondava. La malattia di Ippolito, che ha segnato la nostra vita in quelle terre, ci lasciò in pace, come se si fosse rassegnata a non poter incrinare la nostra gioia. Lontani dalla città, dalle spaccature, dalle discussioni, dall'angoscia di doversi guadagnare la pagnotta. Raccogliemmo dati su dati con l'intenzione di farne un giorno un libro. Ci sono fatti che chiedono a gran voce di essere raccontati per tramandarli alle generazioni future. Che anni meravigliosi quelli che passammo al sud. Mi stavo mimetizzando con quella terra infinita e mi sentivo grande e ricca come la Patagonia. Cominciavamo ad accarezzare l'idea di mettere radici lì, protetti dai boschi superbi, gli occhi perennemente estasiati dalla bellezza che ci circondava, liberi, infine, da quella tosse che scandiva le nostre vite. Scrivere, amarsi, leggere. Ma cosa ne sarebbe stato dei voti che avevamo fatto in gioventù? 8 mesi dopo, nell'agosto del 1931, Mica e Ippolito sono sulla coperta del vapore Massilia che li sbarcherà al porto di Vigo. Me li tieni? Torno subito. Ippolito le consegna dei fogli e una matita. Mica riconosce sui fogli gli schemi di guerra e rabbrividisce, mentre lui continua a studiare tattica e strategia militare, perché bisogna essere pronti. Lei al solo pensiero di impugnare un'arma inorridisce. Non ce la potrebbe mai fare, pensa. Deliana, dopo questo viaggio in Argentina non posso che parlare un po' con te, condividere con loro l'incontro incredibile con questa donna che è un'amica di Elsa e che è arrivata a me attraverso Elsa, la scrittrice della Miliziana, e che però in realtà Deliana porta con sé altre cronache passionarie, appassionate, e quindi per me era importantissimo averti con noi stasera. Grazie. Allora, io voglio raccontare non parlerò del libro, il libro sta lì, mica è presente. Parlerò di Elsie, di Tamara, dei figli, come ci siamo conosciuti, questi figli trasparenti che uniscono le persone. Comunque, parlando del primo approccio per parlare del Sosorio, mi rimando una frase di Flaubert che ha detto: Madame Bovary, c'est moi. Credo che mica non è Elsa Osorio, però non è casuale che Elsa Osorio ha cercato mica e l'ha andata a spulciare, un personaggio femminile non conosciuto in Argentina, e lei è ossessiva con questa storia, a tal punto che è tardato tanti anni in raccogliere il materiale per fare questo libro. Mi aveva già raccontato che stava in questa storia, fino a quando finisce, che ormai quando il libro era quasi pronto, come una detective viaggia in Francia e riesce a trovare le foto di Mica, che dopo avremo, che mi ha lasciato, me l'ha anche lasciato. Dopo, quando già il libro era quasi pronto, perché gli amici francesi di Mica avevano, erano morti anche loro, questa coppia credo, e avevano lasciato questo un vecchietto che stava nel sud di Francia, e lei era andata lì per un festival e riesce a trovare questo signore e si fa dare le uniche foto che ci sono di questi personaggi. Allora, un po' volevo raccontarvi come ci siamo conosciuti con Tamara. Mi invia un messaggio Elsa Osorio e mi dice: dato che tu sei quasi mica in Italia, perché come io non sto così lontano, dice, questa persona mi ha scritto, ti mando il mail, forse contattala perché mi ha chiesto questa cosa, io non lo so che farà. Allora, credo che anche a Tamara le aveva scritto dando il mio telefono, ci siamo parlati, lei mi ha detto che cosa faceva, io non capivo, veramente quando me l'ha spiegato, dopo sono andata il giorno della donna, una cosa bellissima, mi è piaciuto tanto, che ho sentito loro due. E così, attraverso questo filo di Elsa che è partito da lontano, ci siamo conosciuti noi, io, lei e Elsa Osorio, che non era presente ma era anche presente. Però questi fili con questa mia amica sono da molto, esistono, perché curiosamente noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, tantissimi, lei era minorenne, e ci siamo conosciuti in un viaggio su una nave, io andavo a Parigi a studiare e lei con la sorella andavano a fare un viaggio in Europa e ci siamo conosciuti e ci siamo diventate amiche. Ci siamo, tornando in Argentina, abbiamo continuato a vederci fino a quando io sono partita per l'Italia. E non l'ho vista la sorella una volta e dopo non l'ho più vista, dopo il 76 e il golpe militare, io non sono più tornata, non ho avuto più notizie di lei, di nessuno. E passano gli anni e un giorno dopo 3 anni finita il processo dei militari in Argentina, io sono andata a Buenos Aires e andando in libreria ho trovato un libro suo e allora ho capito che scriveva, perché l'avevamo già parlato, infatti lei mi diceva: ah, che faccio? Faccio lettere o faccio il professorato, mi chiedeva quando ci siamo conosciuti. Io no, lettere, perché sapevo che lei teneva un giornale di questo viaggio che abbiamo fatto. E così ho saputo che scriveva. Questo libro era la biografia di una scrittrice argentina. E dopo un'altra volta il silenzio. Io trato di cercare dove stava, non l'ho saputo. E una sera, anni fa, suona il telefono a casa mia, una voce mi chiede se ero io, le ho detto sì, mi dice: ah, sono Elsa Osorio. Io dico: ma da dove provieni, da dove stai? Stava a Roma, che le stavano dando un premio per uno dei suoi libri. E così ci siamo ritrovate un'altra volta dopo questi anni di ausenza. Però la cosa dei fili conduttrice di questa storia è che quando ci ritroviamo c'erano delle cose, tantissime cose che avevamo fatto che ci univano in certo modo in una strada per la vita, di scelte. Per esempio, lei in tutti i suoi libri c'è un impegno, in tutti. Il suo primo libro a 20 anni luz, non lo so in italiano come è stato tradotto, 20 anni di luz, il suo primo romanzo, attraverso la storia di una ragazzina data in adozione dai militari, con questo libro la abuela di Plaza de Mayo, le nonne che ricercano i nipoti, hanno trovato 2 o 3 nipoti attraverso questa cosa. E dopo lei ha continuato sempre, anche nei suoi racconti, che sono metaforici, cioè anche credo che sono tradotti in Italia, in italiano, anche lì, sempre nella tutta la sua letteratura, fino a scavare il personaggio di Mika. E lei ha fatto anche denuncia, ha lavorato a Madrid con Garzón, con il giudice, ha collaborato nel giudizio a Pinochet Videla, ha fatto denuncia di diritti umani, ha continuato sempre su questa linea, per cui c'è un linguaggio che tutti gli anni di assenza, che non ci siamo visti, non esistono, perché è un linguaggio che continua, e ancora oggi non abbiamo bisogno di tante spiegazioni, perché appena ci ritroviamo due parole, ma tu questo e l'altro, e continuano questi fili. Credo che l'ultimo triangolo è stato con Tamara, l'ultimo sabore, questo. Quello è un'altra cosa. Questo non va bene, questo libro è una raccolta, questo Quebrantos è una raccolta di storie di vita delle persone argentine che stavano in Italia durante la dittatura militare. Non è una denuncia solo di quello che li ha portato qua. Sono storie di vita, perché cominciano da quando sono nati, praticamente il percorso per la vita, fino all'arrivo in Italia. Quelle storie sono state registrate nell'anno 78 e 79. Era per fare un copione per la RAI, me l'aveva chiesto un'amica che lavorava alla RAI, che aveva proposto fare un film sull'esilio, dato che eravamo amici e lei sapeva tutte queste storie, conosceva dei racconti. E così abbiamo, anche con un'altra persona, con un'altra signora argentina, abbiamo raccolto queste storie per tutta Italia, non soltanto a Roma. E abbiamo tanti. Abbiamo trascritto un po', e lei ha fatto un copione che ha proposto alla RAI, dopodiché la RAI non ha fatto niente, perché erano momenti con la un po' compromessi con la P2 e con i militari argentini, per cui non è andato in porto. Le storie sono rimaste là, e io le ho ritrovato, questo male italiano che avevamo tradotto per questa signora che doveva fare il copione, però avevo le cassette in spagnolo. E allora ho raccolto 12 di queste che mi sembrava interessanti, come diverse classi sociali, diverse storie, e dopo tante problematiche con i casi editrice che sì che no, subito, in un mese, in Argentina, è stato pubblicato questo libro. L'abbiamo presentato, è stato per me un grandissimo, emozionante, perché dopo c'erano tutte le persone presenti, protagonisti del libro, no, e anche i figli, tanti già non esistono, ci sono con noi, c'erano anche i figli, per cui è stato presentato in quello che era un centro di detenzione clandestino, e dopo passano 2 anni e è stato tradotto e pubblicato in italiano dalla Nuova Delphi, e adesso già un po' ha compiuto questa cosa che era Italia-Argentina, erano voci di tutti e due i paesi. Che stella. La passione di Deliana non poteva che stare qui con noi, continuare a raccontare quello che è accaduto nel tuo paese, una generazione cancellata, stuprata. Quando ci espulsero dal Partito Comunista Argentino, Beso magnate il fegato. Cominciamo a intuire quello che negli anni a venire in Europa avremmo sperimentato nella sua vera portata e nelle sue drammatiche conseguenze. E quello che c'è intorno. Vista in prospettiva, per come eravamo fatti, non eravamo destinati a resistere a lungo in nessun partito o organizzazione politica. Amore, amore, amore, amore, amore, amore è un corno. L'osservanza di dogmi, la burocrazia, i tortuosi meandri del potere non facevano per noi. E quest'amore utopico. Finimmo nel Partito Comunista Operaio e più tardi in gruppi di opposizione allo stalinismo. Il Partito Comunista però restava per noi il nostro punto di riferimento. A Parigi andavamo alle riunioni, a Berlino studiavamo il tedesco nella scuola del partito e ci unimmo alle grandiose manifestazioni. Sai che c'ho qua d'ambiato. Noi ci consideravamo comunisti, noi eravamo comunisti. C'avevo un bel lavoro. Ma in Spagna, e durante la guerra civile ci fu chiaro come non mai che quanti dissentivano da certe politiche venivano considerati nemici pericolosi da eliminare. E sai che ci metto ad annabbia, ma oramai chi me vuole, ma ne manco mamma mia. A credere nelle favole, ammazza che trambata, non gliela faccio più, mannaggia a te. E quando sei nata. A Madrid, nell'aprile 1937, Mica conoscerà la faccia di quell'oppressione. Per lei ha il volto di Jan Bell, agente segreto sovietico, ossessionato da Mica, e da lei respinto con rabbia a Berlino. Jan Bell è lo stesso uomo che ritroverà in Spagna 5 anni dopo, durante la guerra civile. Qui si chiama Andrei Kozlov ed è il consigliere sovietico dei miliziani. Ma il suo vero compito è stroncare le formazioni politiche non ortodosse, come il PUM, il Partito Operaio di Unificazione Marxista, nel quale milita la Capitana, quella che ha guidato la fuga rocambolesca della sua milizia dalla cattedrale assediata di Sigüenza, ricongiungendola al resto della truppa, e che ha resistito con i suoi uomini settimane in trincee alle porte di Madrid, nel fango e fra i proiettili dei falangisti. Per Bell Kozlov, lei è il nemico politico. Quella notte Bell, o Kozlov, o Ruvin come si chiamava, concepì un piano tanto straordinario quanto strampalato: fare di te un agente ed essere la tua guida, il tuo mentore. E nel caso non avessi accettato la grande occasione che ti stava offrendo, restavano sempre la confessione ottenuta con tutti i mezzi necessari e la fucilazione. Mica era davanti al portone di Calle León. Aveva la chiave in mano, ma non ebbe neanche il tempo di girarla. Il grido del poliziotto che le intimava di identificarsi la fermò prima. Era tardi, mezzanotte passata, e non c'era più anima viva in strada. Accadde tutto molto in fretta. Per un attimo pensò di mettersi a correre, ma lui l'avrebbe raggiunta, paralizzata, muta. Si sentiva incapace di reagire in alcun modo. Si incamminò al suo fianco, arrivarono all'angolo e svoltarono. A pochi metri da Calle Lope de Vega, davanti a un monastero, una vettura nera nuova stava aspettando. La portiera posteriore si aprì. L'uomo, con fare brusco, spinse Mica dentro la macchina. Era il 37. Qual è la sua ideologia politica? Sono marxista. Di che genere di marxismo? C'è solo un marxismo. Non urlare, non fiatare o ti ammazzo. Mica è nella cella da un mese, la candela si è spenta, di colpo, l'oscurità, il finto Jan Vel potrebbe andare a cercare un'altra candela, ma lo eccita, quel gioco di procedere a tentoni e indovinare dove si nasconde. Gli viene l'acquolina in bocca, le mani tese come un cieco e gli occhi che la cercano nel buio. Dimmi acqua, fuochino, fuoco, guidami. Dove ti sei nascosta? Mica si schiaccia contro la parete, trattenendo il respiro, rendendosi invisibile. Eccoti qui. Le tocca la fronte, i capelli, fa scivolare la mano lungo la linea stilizzata del collo, scende fino alla spalla e poi il braccio, la mano sottile. Lei non grida, non parla, trema. Abbiamo tutta la notte, Cherie, stai tranquilla. Le sue mani cercano con urgenza il seno di Mica, come se ci fosse un incendio da spegnere. Poi vi si lancia, vorace, con la bocca. Jan. Lui toglie le mani dal seno. Jan Vel, guardami. Gli prende la testa con entrambe le mani, delicata, la faccia contro la faccia, come se avesse bisogno di distinguere in modo chiaro i suoi lineamenti. Jan Vel. Dimmi. E Mica, inaspettatamente, gli sputa addosso. Un disgusto rancido fatto saliva. Lui la picchia sulla faccia, incessante, ma non cancella lo sputo, che anzi pare crescere avvolgendo ogni cosa, soffocandolo. Mica si lascia scivolare fino a terra e rimane lì, incapace di muoversi. Di tutte le sue battaglie, quella appena vissuta è stata la più estenuante. La condizione per la liberazione di Mica fu che il compagno Mera non poté più ammetterla nella sua divisione. Un alloggio sicuro in attesa che ti diano il salvacondotto per passare in Francia. Non andrò in Francia, troverò un nascondiglio, amici, resterò qui nella retroguardia fino a quando potrò tornare al fronte. Non rinuncerò alla vostra guerra. Grazie di tutto, compagno. Compagna, amica, sorella, donna coraggiosa, mancherai a me e a tutti. Prima di salire sulla macchina, Mica si fermò e si guardò attorno. A una certa distanza cominciava a scorgere alcune trincee. Non ci sarebbero state altre trincee per lei. L'avevano cacciata dalla guerra, dalla sua guerra. Non i fascisti, ma quelli che combattevano dalla tua stessa parte, sullo stesso fronte. Alla rotonda, così ligatice, fanno merenda. Cronache da Madrid, Parigi, Berlino, 1931-1935. Ho conosciuto Parigi avvolta nei magici colori dell'autunno e fin dal primo momento questa città ha esercitato su di me un fascino irresistibile, eterno. Parigi è stata la mia scelta, il mio rifugio. Il progetto era quello di dedicarci per qualche tempo in modo esclusivo alla nostra formazione culturale e ideologica. Poi ci saremmo trasferiti in Germania, dove la lotta sembrava più promettente. Incontrammo persone che condividevano i nostri obiettivi, facemmo lunghe e meravigliose passeggiate, maturammo sotto diversi punti di vista e vivemmo intensamente. Parigi è fatta per vagabondare, per godere, per imparare, per amare, scriveva Mica su un quaderno che ha ricoperto con carta plastificata blu. Mi abbaglia la vita che conducete, una vita depurata, ricca, libera e impegnata, unica, etica e bella, la vita delle idee, della passione condivisa per un mondo migliore. Vi vedo felicissimi nel quaderno blu. È un privilegio rincasare in queste notti di freddo intenso e restare a chiacchierare con te, che mi piace ancora come il giorno che t'ho conosciuta. Di più. La sua micuscia è diversa a Parigi, più ardita, più sensuale. Anche lui è cambiato, come se il continuo stimolo intellettuale che ricevono avesse aperto tra loro nuove vie di comunicazione. La risata sgorga, una mano, un lieve contatto e ancora l'esplosione in cui s'avvitano e si disperano e si fondono e si confondono per poi ritrovarsi unici, interi, grandiosi e piccoli, umili e potenti, affettuosi, forti, in pace. Ma la salute di Ippo minaccia la loro felicità. la tosse, il raffreddore, la magrezza. Si deve riposare, mica glielo chiede, per favore. Non c'è motivo per cui devi tenere un ritmo del genere. Studi troppo, dalle 8 di mattina fino a notte fonda. Se morirò, prima voglio almeno aver capito a fondo Marx. C'è sempre un motivo per cui lottare, un sentiero da percorrere e un obiettivo da raggiungere. Berlino, 1932. Tra di noi parleremo in spagnolo e non in francese. Sarà meglio per concentrarsi sul tedesco e riuscire a dominarlo il prima possibile. Era da tanto che non sentivo la sua voce in castigliano e la trovai incantevole. Ippo e io cambiavamo lingua a seconda delle circostanze in cui ci toccava vivere. Non era un fatto straordinario per dei militanti internazionalisti. Noi non ci rendevamo conto nemmeno di passare da una lingua all'altra. Non lo so, era così. La passione rivoluzionaria che ci univa superava qualsiasi barriera idiomatica. Finalmente in Germania, Mikuscia. Guarda queste bandiere. Lo vedi quanta passione politica? Il popolo tedesco non si lascerà schiacciare senza combattere e noi saremo al suo fianco. La speranza era ancora viva alla fine del 1932. Nella Frankfurter Halle si levano i canti. Ippolito osserva le bandiere rosse fiammeggianti. I giovani che marciano a passo deciso, una forza commovente emana da loro. Una sola voce che riecheggia in migliaia di altre. Ma da lì in poi gli avvenimenti precipitarono a un ritmo vorticoso. La sinistra, spezzettata in un numero imprecisato di fazioni con scontri ideologici e personali assai profondi, non poté esercitare la minima influenza sugli eventi. Le vie popolari che ci avevano tanto commosso pochi mesi prima ora erano vuote, abbandonate, desolate, furono giorni cupi, scanditi dalle urla scriteriate di Hitler e di una società che sembrava crepitare al loro ritmo. E il 5 marzo il Partito Nazionalsocialista sbancò alle urne, raggiungendo il 44%. A Berlino pioveva quando partimmo. Eravamo tristissimi, tante speranze crollate. Ma lo sconforto svanì, ancora una volta, svanì tornati a Parigi. Ci facevano coinvolgere dall'azione rivoluzionaria, dalle riunioni, le letture, gli articoli per la rivista Che Faire. E Ippo aveva una nuova attività che lo ossessionava e lo divertiva al tempo stesso. Con il tacco di gomma della mia scarpa e una serie di ingegnosi strumenti che fabbricò da sé, confezionava passaporti falsi per i compagni esiliati, con tanto di firme, timbri, tutti in perfetta regola, impeccabili. Ma Ippo non si curava. E io non seppi o non potei frenare gli eccessi. Nell'inverno del 34 venne ricoverato. Tubercolosi. È una fortuna che l'abbiano diagnosticata. Così posso curarla. Un periodo di ricovero e tornerò come nuovo. Fecero le pratiche in pochi giorni. La situazione non ammetteva ritardi. Il 7 maggio 1935 alle 12:30 Ippolito Ekber e Michaela Feldman si sposarono nel municipio del 6° arrondissement. I testimoni furono Kurt e Katia Landau e Alfred e Marguerite Rosmer. Era solo una formalità, ma Mika si mise cappello e vestito a fiori. E Ippolito indossava un abito beige che gli stava largo e una cravatta a righe. All'uscita andarono al caffè del municipio, ordinarono un sans-serre per brindare con gli amici. Ippo alzò il calice. A Mika, che finalmente si è decisa. Io gli ho chiesto di sposarmi nel settembre del 1920... e ci ha messo 15 anni per convincersi a prendermi come marito. A Ippo, a cui ho dichiarato il mio amore 15 anni fa, quello che lui non dice è che sono stata io a fare il primo passo. Il giorno dopo sarebbero partiti per il sanatorio. Come dormire quella notte, con la prospettiva di stare lontani per mesi? Tranquilla, Mikuscia, tornerò. Dammi il tuo amore e insieme rifaremo il mondo. Bella frase. Graziella. Su questa frase. No, Graziella è un'altra donna appassionata che ha cronache passionarie e che volevamo fosse qui stasera con noi a raccontare altre cronache, le sue, da un'altra generazione. Che ha vissuto forse queste cose in un altro modo ancora. Secondo me è vero, sì. Io penso che tutte noi ci rivendichiamo, no, il nostro essere passionali, però io fondamentalmente ho fatto veramente quello che volevo fare. La mia passione è stata la convinzione, che poi non ho rimpianti, che quelle che potevano essere state anche le battaglie appunto non vinte, oppure anche il ritorno adesso di tante situazioni che invece noi avevamo concretizzato come cambiamenti, no? Che in fin dei conti ti potrebbero far pensare c'è stato sicuramente qualcosa di sbagliato, abbiamo appunto forse frazionato paurosamente, no? Quelle che erano le nostre forze, oppure appunto siamo partiti troppo avanti non riuscendo fino in fondo, no? A concretizzare, forse molte cose piccole le abbiamo concretizzate e che chiaramente non siamo riusciti a concretizzare forse l'utopia, insomma, quella ancora ci stiamo combattendo naturalmente, anche perché uno non molla e continua ad andare avanti. Però ecco, io penso che almeno la mia generazione, chi ha fatto appunto la passionaria, chi ha combattuto, chi si è trovato, mi faceva ridere quel pezzo del libro quando dice le compagne, no? Quante battaglie abbiamo fatto anche con i compagni, no? Allora, ai tempi miei, le donne dovevano essere quelle, le angeli non del focolare, ma del ciclostile. E la cosa oggettiva che invece ho vissuto sempre io all'interno dei comitati autonomi operai, poi del policlinico come collettivo, eccetera, è stato quello che la maggioranza eravamo donne. Quindi angeli del ciclostile giammai, anzi appunto passionari e combattenti, di solito quelle che mettevano i lucchetti e i cancelli quando si faceva gli scioperi, quelli più duri. Quindi anche questo potersi giocare, no? Tanti aspetti differenti, tante situazioni che io penso, però ecco la ricchezza, ma non per rivendicarmi, poi chiaro, io sono donna, sono contenta di essere donna, quindi è normale che me la rivendico fino in fondo, no? Però è vero che c'è una differenza, c'è una capacità di emozioni, c'è forse un modo, che ne so, anche quando sentivo te leggere, non perché tu non leggi bene, però No, è bravo pure lui, no, non stavo dicendo questo come al solito, le solite donne cattive, le vagine dentate e cose di sto genere, no, non stavo dicendo questo, però il tipo di comunicazione, no, anche quando parlavi te, non lo so, è come se in effetti ci sentissimo un po' cullate del nostro anche riuscire a comunicare, no, queste forme di emozioni che per noi prendono corpo e che c'è, non è che non è vero che non c'è razionalità, non è vero che non è pensato, non è vero che sappiamo dove vogliamo arrivare, non è vero affatto che non ci possiamo permettere appunto di ridere o di piangere senza paura di rivendicarci le nostre veramente diversità, le nostre ricchezze. Però in questo senso secondo me è più facile questa comunicazione. Nel macetto c'è sempre inevitabilmente un po' di difesa e c'è sempre inevitabilmente, poi ci sono le eccezioni che confermano le regole, non voglio dire questo, però poi veramente Paolo ci spiega perché nei secoli dei secoli è accaduto, no, questo. Io di questo, guarda, veramente io penso di essermi incarnata sempre in una donna, perché c'ho un senso di scelta, è proprio di scelta anche nell'incarnazione, capito? Che uno dice vabbè, ma ogni tanto non ti piace, sarebbe piaciuto fare l'uomo, no, assolutamente no. Poi figurati, una famiglia di quattro figlie femmine, insomma, quindi proprio il femminile dominava in tutti i sensi. Però ecco, io quello che mi sono vissuto veramente è la possibilità di scegliere, la possibilità di andare fino in fondo pure nei miei casini, nei miei sbagli, eccetera, e di non avere veramente nessun tipo di rimpianto e di ricordare e anche di vivere oggi, perché non è che uno vive di memoria, io vivo di realtà, io vivo ancora di lotte, vivo ancora di cioè riunioni. Il grande cocomero, la neuropsichiatria infantile. Ma figurati, ci sono, sta il policlinico, ci sta la sanità che sta diventando tutto privato, ci sono battaglie in vere conde che non si possono osservare passivamente o rimanere strani quando hai prodotto quelle stessi cambiamenti che oggi ti stanno distruggendo. Quindi è ancora un richiamo immenso veramente alla battaglia, a non lasciare perdere. Te vogliono prendere per la stanchezza, questo è il discorso di fondo, però uno non può assolutamente, perché reputo che quello che uno quando dice i nostri diritti, non ci potete veramente levare l'aria che respiriamo, eccetera, è come dire un qualcosa che io già sento di avere dentro, capito? E quindi è impossibile poter pensare che qualcuno te lo levi, e quindi la ricerca invece proprio della passione che tu è bello aver vissuto, continuare a vivere, ma sentire che veramente c'è quasi una continuità in tutto questo, no? Perché poi è vero, certo, uno direbbe dovremmo passare la clava, perché a una certa età uno dice beh, molto tocca a te, e invece stai sempre in gioco, continui forse a non mollare, ma perché forse è anche difficile mollare, insomma, oggettivamente, finché proprio non te piglia un corpo, che insomma te rincoglionisci del tutto, ma se no oggettivamente non puoi lasciar perdere, perché dovresti stare in una società veramente come intendiamo noi, completamente ritrasformata, dove appunto non esiste più la delega, ognuno è in prima persona, cosciente, capace veramente di essere artefice poi della propria vita. Ecco, io forse in una società del genere la smetto, capirai, non c'è più niente da fare, va bene così, ma sicuramente come stiamo messi io penso che quella che è la nostra passione, la nostra voglia, la nostra ricchezza, eccetera, è quella di continuare a comunicarla. Insomma, non si può vivere individualmente. Questi ci hanno provato in tutti i modi a chiuderci. Ci continuano naturalmente a proporre soltanto qualcosa di virtuale, di rompere naturalmente quelli che sono, per esempio, una cosa che discutevamo oggi con un medico appunto lì alla neuropsichiatria infantile dove io lavoro ormai da 40 anni, e era proprio l'aspetto di l'isolamento sociale, no? Che si sta trasformando veramente in una vera e propria patologia. Ne parlavamo tanti anni fa rispetto al Giappone, dell'incapacità di chiudersi dietro naturalmente ai computer, eccetera, e di come invece in una società occidentale come la nostra, eccetera, la situazione appunto di questo isolamento veramente sta provocando degli aspetti di impossibilità poi per un adolescente di crescere, di trovare naturalmente dei percorsi di comunicazione, ma anche di trasformazione, di curiosità, di possibilità naturalmente di vivere la socialità come elemento di ricchezza. E questo capisci perché ancora più bisogna battagliare, no? Perché pensare, io molto spesso a mia figlia, c'ha 24 anni, dico certo, t'ho dato un mondo che era monnezza, insomma, me vergogno. Oggettivamente con tutte le battaglie che abbiamo fatto, con tutte le trasformazioni, tu oggi dici a giovani, questa è la società. Questo è l'inverecondo rapporto che c'hai naturalmente con gli altri, con i tuoi diritti, col fatto, certo, poi fai le tue battaglie e tutto quello che ti pare, però l'idea sarebbe stata pure quella che tutte le cose che tu avevi fatto, insomma, già partivano da qualcosa di decente, no? Si sono trovati in una situazione 10.000 volte peggiore di quella che è stata anche la nostra possibilità, la nostra socialità, la nostra curiosità, le nostre voglie, ancora di tutto che doveva incominciare. In fin dei conti è vero che è stato un bel periodo, no? È stato un periodo rivoluzionario di cambiamento in cui noi potevamo essere veramente tutto e niente, e sicuramente noi donne abbiamo avuto lì una grande possibilità, no? Di trovare un modo diverso di essere, e questo è stata anche una grossa ricchezza. E però ecco, quello che tu oggi come oggi vorresti è non smettere naturalmente anche di essere curioso e di avere voglia di fare tutto quello che hai già fatto, e forse invece qualcosa di più. Io l'altra volta dicevo, io mo sono una signora che fia, insomma, che fia me la metto sempre, però c'ho un'aria da signora, perché insomma a 60 anni te devi pure dare una regolata, insomma, puoi girare con la che fia, però cerca di portarla pure in un altro modo. Quindi partendo fondamentalmente anche dai cambiamenti, no? Per esempio il cambiamento per la donna, il corpo, un corpo che cambia. Veramente gli uomini arrivano a 40 anni giusto qualche pelatina oppure la panzetta. Per noi donne è un cambiamento continuo e costante, da quando appunto incomincia naturalmente con l'adolescenza, con la pubertà, il seno, le cose, e poi la gravidanza che ti ritrovi, che è, ma poi la menopausa, poi figurati, che fai, c'è la menopausa, poi più scopà, perché oggettivamente lo dice pure Francesco, sicuramente quelli pure, poi quanto puoi capire, però su certe cose, capito? Quindi anche come donne veramente, no? È un continuo misurarci con qualcosa che si trasforma e che diventa ricchezza. A me mi piace un sacco. cronache spagnole. Moncloa, novembre 1936. Mica prese uno straccio e pulì scrupolosamente il moschetto. Lo accarezzò quasi fosse la schiena di un gatto. Non se ne era più separata da quando il sergente Lopez glielo aveva regalato il giorno dopo la battaglia di Atienza. Quella notte stessa Mica sarebbe partita per la Moncloa con la seconda colonna del PUM. Là comandava Antonio Guerrero. Quanto tempo è passato, Ippo? 4 giorni, 4 anni, eppure mi sto già abituando alla tua assenza. Mica non ha più altra casa che quella, la casa che le dà la guerra. Non la vuole neanche più un'altra casa da quella. Come potrebbe vivere in una casa vera senza Ippo? Il rumore raggelante che viene dal nemico la strappa all'abisso di dolore in cui stava per cadere, un immenso frastuono e poi terra, terra e ancora terra, tonnellate di terra sulla testa, nei piedi, sui fianchi, terra sopra, sotto, attorno, apre la bocca e terra, cerca di muovere le gambe e terra, le braccia e terra. Ti sorprese l'affetto con cui ti accolsero, persino quelli che conoscevi meno, tutti felici che ti fossi salvata. Che razza di fortuna la tua! Che gioia vederti! Che coraggio che hai, donna! Essere già in piedi dopo quello che hai passato! Antonio non si stupisce di vederla subito in piedi nella trincea. Niente e nessuno può fermarla. Lo so che non hai paura, Mica, ma fa lo stesso, ti proteggerò! Non fa in tempo a sentire la risposta di Mica, che una scheggia di mitraglia gli squarcia la schiena. L'hanno ucciso. Presto una barella. Andrà tutto bene, Antonio. Ci pensiamo noi a cacciarli. Poi Mica riceve un foglio da parte del comando. Resistete fino alla fine. Era una successione tacita. Nessuno ti aveva nominata sua vice, nessuno ti aveva detto che l'avresti rimpiazzato, ma i miliziani aspettavano i tuoi ordini e tu glieli impartisti. In guerra qualcuno deve comandare, io l'ho fatto. Avevi paura, malgrado la temerarietà che impressionava tanto gli altri, la paura non ti abbandonò neppure per un istante e comunque affrontasti la situazione. Fu allora, Mica, quando a gattoni nelle trincee davi coraggio ai miliziani, controllavi le munizioni, parlavi con le vedette, chiedevi prudenza, ma portavi acquavite ai bombardieri con un chiodo fisso, resistere a ogni costo. Fu in quelle ore che diventasti capitana. 7 ore di combattimento senza tregua. Fu allora, Mica, quando suonarono l'internazionale in segno di omaggio alla tua colonna, quando il comandante Ortega ti strinse la mano e si congratulò calorosamente davanti ai miliziani per la tua eroica condotta. Mica prenderà decisioni, combatterà insieme ai miliziani, li nutrirà, li curerà e farà loro coraggio. E i fascisti non passeranno, si ripete e ride della propria spacconeria. Distesa su un materassino si toglie il reggiseno e se lo sfila dalla manica del maglione con una serie di complicate manovre, nascondendosi sotto il lungo cappotto che la copre. Domani andrà dal comandante a chiedere cappotti, guanti, cibo caldo e granate, mitragliatrici. Come si può affrontare un esercito con quella miseria che ha visto nella polveriera, compagno colonnello? Madrid, ottobre 1937. Dopo l'arresto, quello di Jan Vel, Mica è ricercata dai fascisti come donna pericolosa, comandante dei Rossi ostile della Repubblica. Si rifugia al liceo francese in attesa che le procurino un salvacondotto per poter tornare in Francia. Ora ha bisogno di un nascondiglio, ma non se ne andrà, aspetterà il momento più propizio per tornare al fronte, a combattere gomito a gomito con i suoi miliziani. L'importante è che sia viva. Ma che vita è? Come vivere da sola la vita che era stata di entrambi? La vita delle idee, delle passioni, la vita unica e ricca che avevano. Mica non può viverla senza di lui, non può. Quando la morte la circondava, poteva anche essere sola. Non aveva lamentato la sua assenza quando era stata sepolta dal fango della bomba e neanche quando la mitragliavano. Quando la fame, i pidocchi e il freddo le calavano fino nel midollo, non aveva sofferto di solitudine nel terrore quotidiano della guerra, ma in quella bella stanza, adesso luminosa, lui è dappertutto, è sulla poltrona, mentre discorre delle sue letture. È nel letto che l'aspetta, alla finestra, illuminato dal tramonto. Si avvicina all'ampia vetrata sulla strada alberata e lo scintillio della cupola che si staglia nel cielo rossiccio di Madrid e che lui non potrà più vedere la baglia. Chiude gli occhi, nauseata, smarrita, allunga la mano per afferrare la sua assenza e si tappa la bocca per soffocare un grido. Non torneranno i suoi occhi grigi, la sua voce calda, il suo corpo dolce. Lui non tornerà più. Cosa farà, amica? Cosa può fare ora? Riconosce sul tavolo la sua piccola borsa di pelle. L'apre e trova il vestito color malva che le aveva comprato Hippo a Parigi appena prima di partire per la Spagna. Accarezza la stoffa morbida e rivede i suoi occhi infuocati che la guardano, le sue dita che l'accarezzano lentamente, le sue braccia che la sollevano in aria, e la sua risata riempie la stanza, rimbalza contro le pareti. Mica lascia cadere il vestito come se il tessuto scottasse. La busta con le lettere. Non riesce a leggerle ora, è impossibile. Il quaderno blu che avevano scritto in Germania, a Parigi, l'agenda tedesca nel 35 che le avevano regalato quando faceva le traduzioni. L'apre e trova delle pagine vuote. La penna, subito, la penna, scrivere. Pineda de Humera, Sigenza, Moncloa, i nomi dei posti in cui ha combattuto, parole sciolte per ora. Antonio Guerrero, Emma, i nomi delle persone con cui ha combattuto. Dare una forma allo scorrere dei suoi giorni in guerra. Raccontarlo, raccontarlo per altri. Rendere conto della storia. Ogni parola che scrive, il suo cuore si placa. Sempre di più. Scrivesti quegli appunti infinite volte nel corso di quasi 40 anni. Alcuni li ho io. Altri li ho visti a Parigi e li ho trascritti per non dimenticarli. Appunti su appunti. Hai passato la vita a scarabocchiare i tuoi ricordi. Il sole è già calato del tutto. Mica posa la penna, chiude l'agenda. La stanno aspettando per cena. Prima di uscire recupera da terra il vestito color malva, lo piega con cura e lo ripone sul fondo della borsa. Il fronte mi era ormai proibito. Non potevo fare altro che leggere e tenere riunioni. Eppure lasciai Madrid solo quando i nazionalisti entrarono in città il 28 marzo 1939. Solo allora richiesi il mio passaporto francese e in settembre riuscii a passare i Pirenei. Non ebbi neanche il tempo di uscire e portare in giro il mio dolore per i ponti della città, perché mi misi di nuovo a fare i bagagli. A Marsiglia mi imbarcai con destinazione Buenos Aires. In giugno i tedeschi entrarono a Parigi e io, ebrea, ero già in Argentina. L'umidità di Buenos Aires mi avvolse come un manto assolutamente irreale. Dopo 9 anni di lontananza mi ero del tutto disabituata. Ho pianto troppo davanti a te, non mi resta che andarmene. Quanti volti non scorderò, quanti sguardi senza anima. Tuttora è calmo e ancora non so se è troppo tardi per starti vicino. L'aria che sento non la lascerò. Anche se inverno e fa freddo la sera, come una foglia lasciami vivere nuda e spoglia tra gli alberi verdi nell'ombra raccolta, senza altro in cui credere più. L'amore non mi raggiungerà, il soffio del vento non taglia le labbra, non grida, lamento, non c'è più nessuno a piangermi dentro, nessuno. Ho pianto troppo davanti a te, non mi resta che andarmene. Quanti volti non scorderò, quanti sguardi senza anima. Quanta passione c'è in questa donna qui, che ha aperto una libreria molto, molto particolare. È vero. Ho fatto questa cosa. Mentre leggevi pensavo, no, Mica usciva dalla porta di casa, incontrava le rivoluzioni, lottava contro Franco. In qualche modo invece a me è toccato un momento storico in cui uscivo alla porta di, no, uscivo fuori e trovavo Berlusconi, quindi abbiamo dovuto calibrarci rispetto a quello che avevamo di fronte. E, no, Tuba nasce, è una libreria delle donne, ma è anche un bazar erotico, è un piccolo piccolo posto dove si espongono anche cose, e quello che tiene insieme tutto è la creatività delle donne. E questo è nato un po' perché eravamo in due e volevamo regalarci dell'epica esistenziale, poi nella banalità delle cose, avevamo due lavori, due vite, due nomi uguali, due vite precarie e difficili come quelle di tutte, però avevamo così voglia di fare qualcosa di nostro e qualcosa che non ci fosse già, e volevamo fare qualcosa di femminista. Anche. E quindi Tuba è nata da questo desiderio, da questa idea che però era anche l'idea di riconoscere un nostro bisogno, di riconoscere un'assenza, ed era l'assenza di un discorso che parlasse di noi, dei nostri desideri, che ci vedesse soggetto di desiderio e non oggetto, in tempi in cui invece venivamo nominate ed eravamo pubbliche soprattutto come oggetto. E quindi l'idea di creare un posto dove si potesse parlare di sessualità e si potesse farlo da un punto di vista soggettivante, e che questo parlare di noi e dei nostri desideri non richiedesse un atto di volontà forte, nel senso che tu è un posto semplice, è accogliente, è un salotto nel senso buono della parola, perché c'è un divano ed è un posto appunto pensato per essere giocoso, per essere trasparente, perché i desideri trovino una loro legittimità e possano affiorare senza chiedere nessun tipo di coraggio. E questo ci sembra che sia già un fare tanto. E negli anni, sono 6 anni di vita, siamo diventate un salotto buono, nel senso anche questo buono del termine, nel senso che da Tuba ci si incontra, si dibatte, si discute, si leggono libri, si parla dei libri che si leggono, tantissimi dei libri come quello di Elsa nascono da chi sta con, da chi ci attraversa, ci dicono: ma non ce l'avete questo libro? No, perché è veramente bello. Non siamo libraie onniscienti, ma siamo libraie che si impegnano, questo sì, leggiamo tanto. E così è stato che abbiamo aperto, insomma, negli anni 2000 abbondanti, una libreria delle donne femminista nel cuore di Roma, ed è una bella sfida avere al Pigneto. Però insomma c'è a Roma, esiste un posto femminile, ce n'è più di uno per fortuna, però insomma c'è un posto aperto tutti i giorni, accogliente e femminista. Grazie. Grazie a voi. Cronache di un amore che non muore. Sfoglio le pagine del tuo quaderno con la copertina nera e vedo i tuoi elenchi, le lunghe liste di cose da fare che avevi appuntato a Parigi nel 1936, prima di andare a combattere in Spagna, prima di perdere Hippo. Faremo un lungo viaggio attraverso la Spagna. Il futuro è nostro quando lo affrontiamo insieme. Ippolito è a Madrid. Il panico delle classi agiate in Spagna è profondo. Le voci corrono come polvere da sparo e si ingigantiscono sotto la censura. Gli scioperi si stanno propagando un po' dappertutto. Cosa te ne pare, Micuscia? Venerdì prenderà il treno e domenica mattina sarà a Madrid. Nel bagaglio a mano riporrà l'abito color malva per cambiarsi in viaggio. Vuole averlo addosso quando Ippo la vedrà sulla banchina. Sei più bella di quella sera del 1920. Gli anni e le lotte ti donano. È solo questo vestito. Ma ora a lei un regalo per Ippo. Un regalo che farà bene a tutti e due. Un lungo viaggio in Spagna, come quando erano andati in Patagonia. Giornate lunghe, piene, serene. Atienza, Spagna, agosto 1936. La colonna motorizzata del PUM, comandata da Ippolito Etxebeher, uscì per andare incontro al nemico. Due camion, tre auto da turismo, 100 miliziani, 30 fucili, una mitragliatrice senza treppiede e una chiara determinazione alla lotta. La figura di Ippolito era cresciuta a dismisura tra i miliziani. La sua lucidità, la sua calma nell'affrontare le molte situazioni complesse, il dono di dire esattamente quello che serviva in ogni momento, la capacità innata di comandare, prendere decisioni, l'ardore. Era un leader nato. Aveva il potere magico di attirare a sé la gente. Io ero ancora la stessa di prima della guerra, con i miei pregiudizi, le mie idee, i miei dilemmi morali. Dovevo imparare, cambiare ancora tanto. La guerra, quella vera, con il suo fuoco, i suoi morti, non mi aveva ancora trafitto. Non eravamo ancora arrivati ad Atienza. Quel giorno, in una sosta lungo il cammino, Ippolito raggiunge Mica avvolto in una lunga cappa nera, il basco di traverso, gli occhi scintillanti. Una visita breve, un bacio, ti amo, molto. Mica immagina Ippo che avanza carponi verso il paese, alla testa dei suoi uomini, armati di potenti granate. E poi... poi il sole che sale, gli spari che aumentano e il suono delle mitraglie. Poi silenzio, ancora silenzio. Tutto sembra fermarsi. In lontananza la sagoma di un uomo che corre verso Mica. Piange. Che disgrazia terribile. Che disgrazia terribile. Si ferma davanti a Mica. L'hanno ucciso. Cosa dice? Non capisce. Hanno ucciso tuo marito. Mica ascolta, ma non capisce. Dietro Carmen, Rolo, Emma piangono lacrime aspre e sommesse. L'hanno ucciso. La faccia in fiamme, mentre qualcosa di enorme, gelido, le si conficca dentro. Morto. Ippo è morto. Un salto nel vuoto, un immenso nulla. Le portano la sua pistola. Mica la passa da una mano all'altra. Se Ippo è morto, lei non vuole vivere. Un colpo e tutto è finito. Può vedere gli occhi grigi di Ippo su di lei, sentire la sua voce. Ti ucciderai perché soffri molto, proprio ora, nel bel mezzo della lotta e i nostri principi. Risolverai i problemi del tuo piccolo destino personale dopo la rivoluzione, se non ti ammazzano in combattimento. Non è il momento di morire per se stessi. Parigi, 1968. Il paese è paralizzato, Ippo. E poi sistema il suo ritratto sul comodino. Una doccia e via, a vestirsi. Una gonna grigia e le calze, le scarpe basse nel caso si debba scappare di corsa. La camicia celeste e il cardigan. Dove ha messo il foulard rosso? come quello che portavano le ragazze di Madrid. Le piacerebbe annodarselo al collo, perché no? Bisogna festeggiare. Non è poi così vecchia, malgrado tutti gli acciacchi che l'affliggono. Quella mattina si sente d'incanto, è piena di energia in corpo. Chiunque la incontri sulla sua strada è avvisato. Ride della sua sparata. In strada l'agitazione continua da settimane. Agli studenti di Nanterre si sono uniti quelli della Sorbona e i lavoratori. Quanto piacerebbe a Hippo essere qui e correre con lei davanti a quei bastardi dell'antisommossa che arrivano sempre a fare i guastafeste. Le sembra di sentire la sua voce. Corri, corri, corri, svelta, svelta, amicuscia. Quei ragazzi incoscienti hanno bisogno di noi, corri, corri, amicuscia, svelta, andiamo. Prende borsa, guanti, sa che più tardi li userà, ne porterà anche un altro paio, quelli di cotone. Arriva alla Sorbona. I giovani la conoscono già, le sorridono quando attraversa le barricate che stanno costruendo. Bonjour, camarade! C'è anche quella biondina, Lise. Mica si avvicina e le guarda le mani fuligginose, le unghie le si sono annerite a forza di staccare da terra San Pietrini. Ma sei impazzita, che imprudenza! Ve l'avevo già detto, voi non volete proprio darmi retta. Intanto Mica estrae un paio di guanti dalla borsa e glieli tende. I San Pietrini si cavano con i guanti. Poi si china, ne stacca da terra uno. Se non usi i guanti, le tue mani sporche ti tradiranno. E ora al lavoro, dobbiamo finire prima che arrivino. Alle 11 la polizia carica con una violenza sproporzionata. I carri armati avanzano, i San Pietrini volano sopra la testa di Mica. Poi il fumo degli spari, i proiettili di gomma, i manganelli, le grida. Mica con un balzo è contro un portone, stringe gli occhi come se fosse miope, anche se ci vede perfettamente. È sicura che siano riusciti a scappare, li ha visti correre, ma le sue gambe non avrebbero retto. Meglio camminare piano, come se nulla fosse, ha paura. Ma nessuno lo saprà, men che meno quel poliziotto che si avvicina. Madame, ma cosa ci fa lei in mezzo agli scontri? Non sa, lei non lo sa, non sa niente. Dove deve andare? A casa, Rue Saint-Sulpice. Madame, non si preoccupi, la gente la riaccompagnerà. No, no, non è necessario, ma sì, insiste. Oh, quanto le sono grata. E i guanti sporchi ben nascosti nella borsa, Mica. Mica. Le sue mani candide, curatissime, i capelli bianchi, rallenta deliberatamente l'andatura mentre si allontana nella direzione dei Jardin du Luxembourg e le spunta sulle labbra quel sorriso. Posso fregargli ancora, Hippo. Allora, questa storia non è che si può chiudere, perché i fili sono tantissimi. E allora noi, insieme a Pierpaolo Di Mino, a Veronica Leffe, come Terra Nullius, questa rivista di scrittori, illustratrici con cui collaboriamo per i Red Reading, abbiamo pensato di, diciamo, non di chiudere, ma così di aprire, di riaprire. Allora, per riaprire io pensavo anche, perché poi questo è proprio un ritratto, no? Cioè, sono dei ritratti. I ritratti per me sono importantissimi perché traggono alla luce, espongono tanto se stessi e creano un'intimità. E mi chiedevo se anche voi avete una donna così, magari che non è scritta nella storia ufficiale, ma che per voi ha rappresentato il fatto che con la sua passione l'amore non muore. Non so, un ricordo, anche piccolo, un ritratto. Se qualcuno di voi ce l'ha, una donna, una nonna, una zia, una donna importante della storia, se vi viene in mente ora, mi farebbe piacere ascoltarlo. Ma io sono molto vicina a Graziella per tutto quello che ha detto e per l'età. Ma il racconto è della nonna. Nonna antica, se era nonna mia, figuriamoci. Prima guerra mondiale, Caporetto. Lei a Roma, marito al fronte. Arrivano le notizie e lei decide che lo deve andare a riprendere. E ci riesce. Arriva a Caporetto, là dove stavano in retrovie, lo fa legare e se lo porta via col carretto. ma come si chiamava nonna tua? Ci devi dire come si chiamava, perché Adalgisa. Qualcun altro? Un ricordo? Una donna? Se vi va, se vi viene. Se no, noi... Ho dovuto cercare nella mia memoria. Allora, ho il ricordo di una famiglia con la quale io sono cresciuta, la mia seconda famiglia, la mia seconda mamma, e loro sono una famiglia nel mio paese importante, perché sono sempre stati contro Trujillo, un tirano importante nella nostra isola, 30 anni di governo. E loro erano direttrici di una scuola di bambini, e a un certo punto tutti i maschi della famiglia sono stati accusati contro Trujillo, per cui dovevano scappare. Allora, per farle scappare, scusate, questo perché mi emoziona l'idea, queste sorelle, insegnante della scuola dei bambini, chi direttrice, chi insegnante di questo e quell'altro, mettono tutto un gruppo di bambini sul pullman della scuola, stiamo parlando degli anni 30, infilano i fratelli sdraiati nel pullman e così li portano fino al porto, dove poi sono andati in Europa e vissuti tantissimi anni in esilio, in Spagna, in Francia. E era bellissimo perché tanti bambini cantavano e non l'avevano detto nessun genitore di questa cosa, però tutti i genitori erano, ovviamente, se avevano i figli in quella scuola, erano antitrujillista e a favore assolutamente di salvare chi poteva essere salvato, perché sennò realmente, poi voi forse conoscete tutte le sorelle Mirabal, cioè, è quell'epoca lì, cioè, si eri contro Trujillo, cioè, non c'era speranza. E quell'immagine di questi bambini nel pullman e tutti i fratelli sdraiati, loro cantando le canzoni, è fantastica. Le donne sono, quando sono forti, insomma. Allora noi riapriamo e buttate dentro i vostri ricordi mentre riapriamo. Beh, adesso io esco un po' dalla storia di Mica, che ha portato appresso, seguendo tanti fili, no? Tante altre storie di donne. Esco fuori dalla storia per andare attorno a qualcosa. Una volta si sarebbe chiamato mito, e nei miti si raccontano storie che magari non sono mai avvenute, perché avvengono sempre, perché secondo me stasera abbiamo raccontato qualcosa che avviene almeno da tanto, una storia di come viene repressa, non solo nelle donne, in tutti quanti, la passione, l'amore, una capacità diversa di ragionare e di usare l'immaginazione, che dovrebbe essere di tutti, e come questa repressione però ci porta ancora più passione, perché ci porta a dover lottare a tutti i costi, ci porta eticamente a cercare l'amore e la bellezza. Sono 10.000 anni, vediamo così. Infatti Elsa Morante, un'altra grande donna, chiamava la nostra storia un incubo, però negli incubi ci sono anche delle stelle che ci guidano, giusto? Ne abbiamo scelte 5 donne, fra le tante. Lei è Ipazia, accesa da passione socratica e piena di un folle amore platonico. Ipazia cominciò a insegnare per le strade di Alessandria e divenne la maestra di tutti gli uomini liberi del suo tempo. Un tale vescovo Cirillo, santo della Chiesa Cattolica, ragionò che tutto questo non era possibile, che una tale passione e un tale amore non si addiceva a una donna rispettabile. Volle dimostrarlo, liberò dei ladri da un carcere, li fece frati e diede loro l'ordine di scannare l'impudica. Quindi Cirillo completò l'opera santificando Maria, affinché a tutti fosse d'ora in poi chiaro che una donna rispettabile, se ama, ama Dio e basta. Giovanna d'Arco. Anche l'amore per Dio, però, può essere impudico e pericoloso. Per esempio, Giovanna d'Arco trasse da esso l'ispirazione per mettere su una milizia popolare di difesa nazionale. La donna dettò pure quelle regole di condotta rivoluzionaria che, riprese da Garibaldi, ebbero un grande successo in tutto il Novecento, dalla Russia fino a Cuba. Non per questo però è celebre, quanto piuttosto per la famosa cura che le impartirono su una pira incendiaria, nella speranza che quel fuoco combattesse quello che le bruciava dentro. La cura non funzionò. Cristina di Belgioioso. Cristina di Belgioioso fu un altro caso di amore platonico, fu un grande filosofo. Questo le fece amaramente capire che l'Italia non sarebbe andata bene dal momento che un tratto accomunava i Savoia, Cavour e Mazzini, l'idiozia. Non essendo permesso però a una donna mettere bocca su questioni serie con rischio di sembrare irrispettosa, usò certe sue terre private per instaurare una repubblica socialista. Dovettero cacciarla dall'Italia e così andò a Raminga per il vecchio continente, studiando il Rinascimento e Vico e scrivendo la Costituzione del 1945, 100 anni prima. Per difendere una sua compagna dalle angherie di un amante geloso, subì da costui 5 coltellate. Al suo funerale non partecipò nessuno. Simone Weil. Simone Weil ce l'aveva proprio tutte, perché amava sia Platone che Dio. Ma il triangolo non fu infelice, perché il primo amante la obbligava a pensare a beneficio di tutti gli uomini e il secondo a tradurre questi pensieri in una rivoluzione. Questo le permise di lottare durante la guerra civile spagnola e di lavorare durante la seconda guerra mondiale per la distruzione di Hitler. La morte in un sanatorio per tubercolotici non le impedì di vincere. Josephine Baker. Josephine Baker magari non conosceva né Dio né Platone, ma dell'amore sapeva tutto. Era pazza d'amore e infatti per amore ne faceva di pazzia. L'amore la costringeva a ballare e cantare in maniera sfrenata tutto il tempo e una volta la obbligò ad andare a letto con tutto il corpo ballerino durante una trasferta in treno. E poi, scoppiata la guerra, a combattere contro il nazismo e finita la guerra, a lottare accanto a Martin Luther King. Alla fine l'amore la ridusse a uno straccio. Vent'anni ha impiegato la scrittrice Elsa Osorio a ricostruire un'altra biografia dimenticata dalla storia perché incomoda, questa di Mica. Impossibile da etichettare per l'ottusa paura che gli apparati di partito prima e la storiografia poi hanno avuto ed hanno di una donna così, una donna libera. In una parola, questa è Mica e tutte le donne che illuminano il Novecento, le luci nell'ombra, quei fili invisibili che annodano la storia. Mica fa luce lungo la strada, insieme al suo Ippolito. Perché l'amore dipende dall'istinto cieco, Micuscia. La nostra lunga vicinanza, la gioia di camminare insieme nella vita, dipende dalla volontà, dalla lungimiranza. Noi ci siamo guadagnati il diritto di amarci e bisogna vivere adesso, agire e vivere, perché il tempo che abbiamo non è infinito, ma la storia che abbiamo scritto, quella sì, quella quando c'è qualcuno che la racconta, non muore mai. E se hai bisogno di ricordi, ricordati, sono una fabbrica che se mi chiedi una parola, mi chiedi di rincorrerla. Da quando ti conosco, conosco i limiti che ho, che non sono i miei e non sono i tuoi, che ho nelle ossa le tue ossa, come ai piedi le tue scarpe, come in faccia i tuoi capelli, come in fiato il tuo sapore, come in mano il tuo andare. Rapido. E se hai bisogno di respiro, respira me, che sono un mantice. E se ti muovi più vicino, vieni giù come una foglia che ho nella storia, la tua storia, come in faccia la tua rabbia e nelle labbra il tuo rumore. E come in fumo il tuo ingoiare, come impasto il tuo ideale sotto alle palpebre il ripensare. Rapido. Grazie, grazie a Veronica Leffe, Pierpaolo Di Mino, Michele Baroni, Danila Massimi, Graziella Bastelli, Deliana Fantago, Barbara, non mi ricordo il tuo cognome, tu Babazar. Grazie a Scena Sensibile, che ci ha inseriti dentro la sua bellissima rassegna Sensibile. Grazie a Terra Nullius, Narrazioni Popolari, a Radio Onda Rossa, che domani trasmetterà al Radioteatro di Federico questa serata. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato, Mars Video, Chiara e tutti gli altri, e a voi.